English Bit di Giulia Crivelli. Treat. How Botox became the drug that's treating everything. Depression, heart trouble, migraines, erectile dysfunction, back pain, sweaty palms, drooling and 793 other problems. Sulla copertina dell'ultimo numero del settimanale americano Time campeggiava questo titolo: come il Botox è diventato il farmaco che cura ogni cosa: depressione, problemi di cuore, emicranie, disfunzione erettile, mal di schiena, mani sudate, salivazione eccessiva e 793 altri problemi. A illustrare l'inchiesta, un coltellino svizzero da cui spuntano piccole siringhe al posto di lame e utensili. La parola che ci interessa è treating, gerundio del verbo to treat, regolare, treat, treat. Treated. Qui significa curare e fa riferimento a varie malattie. Il sostantivo treatment vuol dire quindi cura più che trattamento. Basti pensare alla serie TV In Treatment, di cui esistono tre versioni: quella originale israeliana, quella americana e quella italiana con Sergio Castellitto che interpreta lo psicanalista, da qui il titolo In Cura, visto che si racconta dei pazienti che sono appunto in cura dal medico. Notare anche l'uso di drug, che vuol dire sì droga, ma anche medicina, farmaco, pillola, come in questo caso. She was a drug addict. Era una drogata. The doctor put me on pain killing drugs. Il dottore mi diede degli antidolorifici, letteralmente pillole, drugs, che uccidono il dolore, pain killing. The drug has some bad side effects. Questo farmaco ha brutti effetti collaterali. Ma torniamo a treat. Treat your keyboard with care and it should last for years. Tratta la tua tastiera con cura e dovrebbe durare per anni. My parents still treat me like a child. I miei genitori mi trattano ancora come un bambino. He was treated as a hero on his release from prison. Fu trattato da eroe alla sua uscita dal carcere. Passando al significato medico, the condition is usually treated with drugs and a strict diet. In generale, la patologia viene curata con farmaci e una dieta ferrea. She is responding well to treatment. Sta rispondendo bene alle cure. Per tornare a Time e all'inchiesta sul Botox, si scopre che molti investitori stanno studiando la possibilità di alti guadagni legati all'uso di questa tossina. If it works for depression and fibrillation, it could be massive. Se funziona per depressione e fibrillazione atriale, potrebbe fare il botto, commenta ad esempio un analista di Bernstein.